questa... No, se a voi va bene, io continuo così un po' la meditazione attraverso questo filo rosso delle case di Gesù che ci potrebbe portare a fare 20-30 meditazioni, perché di fatto poi anche nella vita pubblica ci sono tante case significative, no? Dove Gesù incontra le persone, dove abita, dove guarisce, dove... vabbè, però intanto vediamo che adesso nella vita di infanzia senz'altro ci sono tante case significative che però, che fra l'altro interessante appunto come dicevamo prima, sono diventate luoghi di culto, no? E da Nazareth quella casa, cioè la casa successiva che Maria e Giuseppe cercano in modo un po' improvvisato e sicuramente, come dire, un po' faticoso, anche forse angoscioso. E a noi fa bene vedere le persone della... cioè così, vedere l'umanità, no? Di Maria, di Giuseppe, di Gesù, no? A me piace molto anche vedere, cioè, la dimensione umana in quelle cose che a noi a volte possono apparire difettose, no? Non so, Gesù che si arrabbia, Gesù che, no? che prova tristezza, che prova angoscia, no? Oltre che provare fame, sete, sonno, stanchezza, gioia, esultanza. E ci aiuta molto per dare, come ci dicevamo anche in questi giorni, valore divino all'umano, che a volte noi abbiamo la tentazione, io posso pensare che sia una tentazione di pensare che sia appunto negativo, difettoso, che sia come un ostacolo per incontrare Dio. Invece noi possiamo trovarti Gesù, trovare Dio Padre, possiamo trovare la vicinanza di Maria attraverso, cioè dentro alla nostra umanità, anche in questi momenti, nei momenti che ci possono sembrare difettosi, no? Possiamo pensare sì, che sia un ostacolo all'incontro con Dio, ecco. Quindi Maria e Giuseppe vanno verso Betlemme, no, il Vangelo non dice il loro stato d'animo, delicatamente il racconto di Maria che arriva a San Luca dice non c'era per loro posto nell'albergo, no? Non c'era per loro posto nell'albergo. Quindi lo avvolse in fasce e lo pose nell'alloggio e lo pose in una mangiatoia, no? E andando lì facendo una visita a Nazareth, uno degli esperti del luogo ci faceva vedere queste case povere, no, della Nazareth, in cui era prevista una stanza all'inizio, una grande stanza in cui, scavata nella roccia, in cui tutta la famiglia alloggiava e dormiva, e poi dopo dietro c'era la stalla, no? Per cui un'ipotesi di lavoro può essere anche quella, no? Che era una casa piena, non c'è posto per loro nell'alloggio, devono andare nella stalla, no? Cioè, dove stanno gli animali. Si capisce quindi anche meglio quando quelle parabole del Signore in cui c'è quello che bussa all'amico e dice no, ma i miei figli sono già a letto, cioè, perché? A passare su di loro, no? Per andare ad aprire la porta. Vabbè, questa è un'ipotesi di lavoro, un'altra è che invece sia proprio un alloggio per animali ecco, la difficoltà, cioè potremmo dire comincia male la vita del figlio di Dio sulla terra, cioè comincia con difficoltà, con incertezza, no? Con insicurezza, con contrarietà. Ma evidentemente questo è una realtà che ci dice tanto, no? Che ci dice che noi appunto possiamo trovarti Gesù appunto anche in queste situazioni difficili. Poi ti possiamo trovare anche nelle situazioni gioiose, e questi si chiamano i misteri della gioia, no? Quando meditiamo con il rosario questi primi episodi della vita del Signore sulla terra. E di fatto gli angeli e i pastori, gli angeli appaiono, i pastori fuori, no? Fuori dalla. Anche questo è un bel mistero. È un grande mistero. Cioè che, per esempio, nella vita di Maria non sappiamo se altre volte gli angeli gli hanno detto qualcosa, sono apparsi, gli hanno parlato, perché nel Vangelo non c'è nulla. Dopo il primo incontro con Gabriele non c'è nulla. A Giuseppe accade di più spesso, no? Da capofamiglia, da quello che doveva alzarsi e guidare, appunto, prendere con sé il bambino e sua madre e trasportarli nella notte di qua e di là. Però, al di là di questi episodi, anche con loro che sono i prescelti da Dio per essere madre, in senso anche proprio fisico della generazione grembo, no? Del figlio di Dio, e padre in tutto, tranne che nella generazione, in tutto il resto, padre e madre del figlio di Dio, loro i prescelti vengono aiutati e istruiti e incoraggiati e confortati, e anche gli passano i messaggi di Dio altre persone, no? Altre persone. Ci sono dietro sicuramente tante dentro a questo mistero, tante cose belle della provvidenza di Dio, non c'è perché. Appunto, apparendo ai pastori, gli angeli stanno dando un segnale ai presenti, a loro, a Maria Giuseppe e anche a noi, dopo tanti anni, del fatto che i primi che vengono informati di questa grande cosa, i primi al di fuori della stretta cerchia, Maria Giuseppe e Zaccaria e Elisabetta, sono persone povere, persone un po' che erano considerate male, no? Dal punto di vista del compimento della legge di Dio, no? Erano considerati quelli che non. Ho sentito anche spiegare che addirittura c'era qualche teoria rabbinica, piuttosto che insomma, di quel mondo lì, che diceva che era a causa dei pastori che non veniva il Messia, perché loro non vivevano bene il sabato, il riposo del sabato, portavano in giro le pecore e così via, no? E allora, ecco, queste spiegazioni umane così sbagliate, no? Che tante volte ce le facciamo anche noi, e Dio interviene e va proprio da loro, no? Sono i primi addirittura a portare l'annuncio, diventano annunciatori a loro stessi, no? Il bell'annuncio, so, degli angeli che dicono: questa gioia sarà per tutto il popolo, e lo portano loro a Maria e a Giuseppe, tanto che c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, il timore che sempre, insomma, è accovacciato alla nostra porta, il timore di fronte all'incerto e anche al soprannaturale, cioè ciò che Dio ci può chiedere, no? Ma l'angelo disse loro: non temete. Vedete quante volte sentiamo anche oggi questa parola, no? Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Mi viene in mente in questo momento che prima di andare in Terra Santa, ho fatto un solo viaggio in Terra Santa, ma spero di farne altri, e mi dicevano: poi cambierà il modo di leggere il Vangelo, no? E in effetti lo sto notando, perché in questo momento, mentre leggo questo brano del Vangelo e mentre benedico il lavoro di questo Signore che sta cercando di asfaltare questa viuzza sconosciuta, pensate, ecco, forse Betlemme in quel tempo era più o meno come Urio, una viuzza sconosciuta dove avviene un avvenimento molto grande. E mi viene in mente quel campo dei pastori che si può visitare a Betlemme, dove abbiamo avuto, ci sono alcune grotte dove si può celebrare la messa, alcune grotte dove i pastori alloggiavano, pernottavano, c'è il gregge un po' fuori, loro dentro queste grotte, ed è indubbiamente molto suggestivo, e penso che sia molto più difficile celebrare nel luogo della nascita di Gesù, no? Dove c'è tanta gente che va e viene, ma in queste grotte è molto facile, e poi appunto questi Vangeli vengono letti con quelle piccole variazioni anche nella liturgia, no? Dove si dice proprio qui, no? Calde questo che leggiamo. E questo per voi il segno, no? Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. È come a dire, con questo episodio singolarissimo, cioè quindi questi pastori hanno avuto una visione del cielo, degli angeli del cielo, cosa che Giuseppe e Maria probabilmente non hanno avuto in quel momento. Loro vedevano il bambino nato, che certo oggi lungo i secoli i pittori hanno descritto questo bimbo come fonte di luce, no? Pensate, l'adorazione dei pastori, ce ne sono tante bellissime, no? Mi viene in mente quella di Lorenzo Lotto, mi viene in mente quella di Rubens, che sta fermo, il bambino come fonte di luce, no? Che illumina. Allora, qualche cosa di particolare, probabilmente questo bambino ce l'aveva, forse la sua nascita è stata appunto un po' speciale, forse è stata senza dolore, come si intravede da questo accenno del Vangelo che dice che la madre stessa lo avvolse in fasce, e sarebbe del tutto teologicamente comprensibile, no? Il dolore del parto, che è il segno del peccato, invece che è conseguenza del peccato. Gesù e Maria no, e comunque è tutto avvolto nel mistero, no? Gesù, questo bimbo che è, qualcuno dice, forse è passato dal seno di Maria come passò poi il suo corpo risorto, come dalle porte, come passò dalla, misteriosamente, tra la gente che voleva buttarlo giù a Nazareth, cioè passò in mezzo a loro, non lo sappiamo. Però quello che a noi colpisce è che in un certo senso l'intimità di questo episodio della nascita di Gesù è custodito e la straordinarietà sta al di fuori, no? Come dire che questa gioia è per tutto il popolo, quindi deve essere diffusa, no? E loro vanno anche come testimoni altri, no? Poi c'è una tradizione che dice che poi loro, quando Gesù è più grande, in qualche modo loro o i loro figli, insomma, questo gruppo, sono entrati a far parte anche delle persone che seguivano Gesù, no? E sono testimoni, no? E infatti hanno potuto raccontare in una tradizione che poi è arrivata fino all'Evangelista, hanno potuto raccontare quello che hanno visto, no? E un segno che appare però nella sua normalità, anche se forse nel vederlo ci possiamo immaginare questo figlio di Dio fatto uomo che conquistava, che toccava il cuore, che colpiva con la sua presenza normale e allo stesso tempo unita alla divinità. Comunque poi dopo sappiamo che Gesù ha saputo tenere nascosta questa sua divinità lungo tutto il periodo di Nazareth, pensate, lungo tutto il periodo di Nazareth ha tenuto nascosta, la sapeva solo sua madre, suo padre Giuseppe e forse nessun altro a Nazareth quando poi tornarono dall'Egitto, perché i pastori rimasero a Betlemme, insomma. La divinità nascosta, che poi per esempio nello spirito dello Usdei questo è un elemento fondante, no? Il fondatore nei suoi statuti dice che ecco i 30 anni di vita nascosta, come si dice tradizionalmente, e sono elemento di, per noi, di ispirazione nel modo di vivere il nostro cristianesimo in mezzo al mondo, no? Cioè quindi con molta naturalezza, con molta semplicità, però certo avendo dentro la fede, l'amore, la speranza e portando con noi, no, l'intimità con il Signore, la vita soprannaturale, che poi a un certo punto deve anche uscire come esce in Gesù durante la vita pubblica, no? Perché non possiamo così tendenzialmente ispirarci in 30 anni di Nazareth, però poi ovviamente vivere anche gli anni di vita pubblica non può rimanere nascosta, ma in certi momenti, in una certa, con gradualità e con normalità possiamo cercare il dialogo con tutti a partire dalla nostra umanità, trovare tanti collegamenti così, no? con ogni tipo di persone a partire da valori umani condivisi, no? E poi successivamente ci può essere, con la libertà di chi ascolta e di chi parla, l'approfondimento della fede ricevuta perché possa esserci la conoscenza di Dio e poi entrare in comunione con Lui, che è un desiderio di Dio di arrivare a tutti, è un desiderio nostro anche. Allora Gesù entra nel cuore dei pastori perché loro hanno ricevuto l'annuncio dell'angelo, ma poi vedono un bambino deposto in una mangiatoia. Ma perché non c'era posto, ma perché poi la stalla comunque è il luogo più caldo d'inverno, perché il calore degli animali favorisce, no? Lo dico sempre quando predico su questo argomento, su questo mistero, che mio nonno materno nacque in una stalla, il papà di mia madre nelle sue memorie lo scrive, no? Sono nato in una stalla come Gesù bambino, ma perché evidentemente usavano così, è nato sulle rive del Tagliamento. Io ho provato da bambino ad andare in quei posti in febbraio, fa molto freddo, non c'erano riscaldamenti nelle case, no? Per cui il luogo più caldo era la stalla. Poi così nascevano forti i bambini. Quindi la normalità di Gesù comincia a mostrarsi fin da subito a questi pastori, ed è una normalità che conquista, ovviamente ci sarà stata anche, ci immaginiamo, una bellezza particolare. Comunque loro leggono questa normalità del bambino dei posti in una mangiatoia alla luce dell'annuncio ricevuto, quindi vedono la normalità con la luce della fede, che è quello che siamo chiamati a fare anche noi nella nostra vita, cioè e illuminati dalla normalità di Gesù. Abbiamo parlato della probabile straordinarietà di questo parto, il dolore che salva anche la verità di Maria, che, ok, d'accordo, però poi tutto il resto è normale. Gesù uomo come noi, tutto uguale a noi, tranne che nel peccato. Questa è la strada che tu, nostro Padre, Dio e lo Spirito Santo e il Verbo avete deciso che fosse la strada per riavvicinare l'umanità a Dio, no? Un nuovo Adamo e una nuova Eva, no? Che è Maria, madre di tutti i viventi, l'essere umano uomo, l'essere umano donna restaurati direttamente da Dio, e addirittura Dio stesso che si fa uomo per mostrarci il volto del Padre. Chi vede me vede il Padre. E la strada per raggiungere la casa del Padre mio, dove ci sono molti posti. Tu, Gesù, sei la strada, la via. La via, la verità, la vita. Tu sei anche, cioè sei la nostra fede cristiana, che è l'incontro, no? Che è un avvenimento, che è un incontro con una persona, come piaceva dire a Benedetto XVI, comincia così. La prima enciclica di Deus Caritas Est, con parole probabilmente ispirate anche al carisma di Don Giussani, cui piaceva tanto sottolineare l'evento Cristo, cristianesimo, anche con queste parole. Questa è la strada scelta da te. E quindi ecco perché anche Giovanni Paolo II, nella sua prima enciclica, Il Redentore dell'Uomo, diceva: l'uomo è la via della Chiesa. L'uomo è la via della Chiesa. E quindi in qualche modo, anche se volete teologicamente, sintetizzando le diatribe successive al Vaticano II, cioè e antropocentrismo o teocentrismo, in fondo in Cristo queste diatribe si uniscono, no? È Dio e uomo perfettamente unito. È vero che su di lui le eresie si dibattono, no? Chi sottolinea di più l'uomo dimenticando Dio, chi sottolinea Dio dimenticando l'uomo, però se noi contempliamo Cristo, lì c'è la sintesi ed è una sintesi che penso tu, Signore, con la benedizione, l'intercessione di Maria e di Giuseppe, con la forza dello Spirito Santo, cerchi di creare in noi una sintesi che noi dobbiamo trovarti, Gesù, nella nostra umanità, dobbiamo trovarti nella nostra umanità. E nell'umanità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle sei tu, sono strada per trovarti, strada per amarti, strada per servirti. E tu in qualche modo ce la fai vedere con questi pastori a cui tu vuoi arrivare attraverso l'umanità del tuo figlio che porta sulle nostre strade, nei nostri giorni, nelle nostre notti, nelle nostre grotte, nei nostri campi, nelle nostre attività umane, la persona del Figlio di Dio e quindi con lui tutta la Trinità. Chiediamo al Signore che ci aiuti a percorrere questa via. Negli Atti degli Apostoli la fede cristiana, il cristianesimo, la Chiesa viene chiamata la via. Percorrere questa via con te, Gesù, come tu la percorri con i tuoi discepoli di Emmaus in questo tempo di resurrezione, lo abbiamo molto presente. Che ci aiuti la tua parola, la tua attenzione, il tuo ascolto, la tua domanda, il tuo fermarti con noi nella locanda perché si fa sera, perché il giorno declina, perché in fondo perché ci piace, ci interessa molto continuare a parlare con te e ci interessa ecco, l'unione con te, no? Lo spezzare del pane che ci porta ad entrare in comunione con il tuo corpo e il tuo sangue. Ecco, ti chiediamo di poterti riconoscere sulle strade del mondo, ma anche di poterti portare noi sulle strade del mondo, cioè tu, noi dentro di te e tu dentro di noi a percorrere le strade del mondo. Ad abitare le nostre case, a essere presente nei nostri luoghi di lavoro, di svago, in tutte le realtà dove si svolge la vita degli uomini, a portarti nei luoghi di svago e nei luoghi di sofferenza. Dai, adesso in questo momento anche preghiamo molto per la Siria che in un altro dei momenti durissimi e difficilissimi della sua storia, uniti alla preghiera del Papa e di tutta la Chiesa.